prima edizione. Ancora una buona giornata da Anna Migliorati. Una piccola sfida questa mattina vi lancio con prima edizione. Sentite un po', li riconoscete? Avete visto il mio papà? Tesoro, sarà rimasto al negozio di pesci tropicali. Hai un amico. Io vengo dal bazar del pesce. Pesci del mondo. Un grande amico. Io vengo dall'oceano. Ah, l'oceano. L'oceano! Non è dritta, ci sono 2000 pericoli. Non credevo di dover affrontare l'argomento, ma si dà il caso che viviamo a Parigi. Ed è così facile trovare delle prelibatezze a Parigi. Solo che pericoloso. C'è un vero amico in me, più di un amico in me, un vero amico. Dal tuo armadio non uscirà più niente che ti spaventerà. Sì, addio, Po. Gatto. Gatto deve andare ora. Abbiamo ovviamente voluto farvi sorridere. La notizia però c'è ed è che oggi apre a Milano Pixar 25 anni di animazione, oltre 700 opere per raccontare la storia e il lavoro di Pixar Animation Studio, la compagnia tra l'altro di Steve Jobs. Anche questo in prima edizione. Ci aspettano però ovviamente le notizie di queste ore, come ogni mattina, a cominciare dal maltempo. Ve l'abbiamo detto, la situazione è difficile in Sicilia ed è difficile in Calabria. Ne parliamo tra pochissimo perché sentiamo innanzitutto come vanno le strade e poi le prime pagine dei giornali. Repower vi presenta Strade in diretta. Buona giornata dalla redazione di Strade in diretta. Subito l'appuntamento con il maltempo in Sicilia e Calabria. La circolazione resta pesantemente condizionata dal maltempo. Le situazioni più difficili a causa di frane e allagamenti nel Messinese, a Catanzaro e provincia. Chiusa la linea ferroviaria Palermo-Messina, si viaggia con difficoltà sull'autostrada A20 tra Milazzo e Barcellona ed è chiusa in più punti la statale 113 settentrionale Sicula. Quest'oggi il maltempo interesserà anche la Puglia, in particolare la provincia di Taranto e il Salento, forti piogge anche tra Marche e Abruzzo. Prudenza in queste ore anche per la nebbia nelle valli appenniniche centro-meridionali che riduce la visibilità in diversi punti. Sul resto dei percorsi lungo l'A4 ci sono code per perdita di carico tra il bivio per la 21 e Brescia Ovest in direzione Milano. Per il momento è tutto, Strade in diretta torna tra mezz'ora. Prima edizione. Ed eccoci con le prime pagine dei quotidiani in edicola, quotidiani sui quali ovviamente, essendo avvenuto soprattutto nella notte, in tarda serata, non è ancora così chiara e delineata quella che invece è la nuova tragedia del maltempo, ne parleremo tra poco, e quotidiani che invece puntano l'attenzione soprattutto sul tour europeo del Presidente del Consiglio Mario Monti. Monti, ora riforme incisive, il titolo del Corriere della Sera. Il Premier a Bruxelles, subito manovra correttiva da 15 miliardi, piena sintonia di Roma con le richieste dell'Unione. Questo il commento sul Corriere della Sera dopo il vertice di ieri. Euro appeso ai lenti rimedi della Merkel, moneta e trattati, è un altro commento che trovate sul Corriere della Sera, che a fianco riporta anche l'altro tema su cui è intervenuto il Presidente del Consiglio ieri, vale a dire la questione Finmeccanica travolta dalle inchieste di questi giorni. Soluzione rapida per Finmeccanica, il governo chiede una svolta dopo l'inchiesta, ma Guarguaglini resiste alle dimissioni, favori a pochi, danni per tutti, l'editoriale a firma di Sergio Rizzo. Il Sole 24 Ore, Monti all'Unione Europea, ora riforme incisive, incontro con Barroso, una sfida immensa, rischio baratro, i fatti o sarà tardi, le attese e le scelte, così il commento invece sul Sole 24 Ore di questa mattina, che anche qui riporta il tema Finmeccanica, soluzione rapida, il Premier ai ministri, subito le iniziative necessarie. La Repubblica, Monti all'Unione Europea, l'Italia ce la farà, Barroso sfida immensa ma c'è fiducia, nuove tensioni sullo spread, anche qui scandalo Finmeccanica, ultimatum del Premier. A fianco c'è quello che invece è il nuovo tema lanciato dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, anche questo trova ampio spazio sui quotidiani di questa mattina, sono molti i commenti, vale a dire Napolitano, follia negare la cittadinanza ai figli di immigrati, così le parole ieri del capo dello Stato che hanno aperto un nuovo tema, la Lega attacca il Colle, il PDL governo a rischio ed ecco già un nodo politico difficile per il governo, quei ragazzi nel limbo, la polemica a firma di Chiara Saraceno sulla Repubblica. La Stampa decide addirittura di aprire con questa notizia, immigrati, Napolitano, chi nasce qui deve essere italiano, protesta della Lega che annuncia faremo le barricate, i vantaggi di una risorsa trascurata è il commento sulla Stampa. Stampa che subito sotto riporta anche qui naturalmente i temi legati al viaggio europeo del presidente Monti e poi titola Finmeccanica interviene Monti, crisi il premier a Bruxelles, saremo più incisivi, Barroso sfida immensa. Monti rassicura l'Europa, l'apertura scelta anche dal Messaggero. A centro pagina immigrati, cittadini, i figli nati in Italia e poi l'immagine invece sulla prima pagina del Messaggero di questa mattina è quella della cosiddetta guerra tra bande a Ostia, uccisi due boss, ve l'abbiamo raccontato anche noi poco fa nel nostro giornale radio. Altre notizie da segnalare sempre dalle prime pagine dei quotidiani, torniamo sul Corriere della Sera ma lo trovate un po' ovunque, ieri sono arrivati i dati d'ascolto dello show di Fiorello, oltre 12 milioni di spettatori, la rivincita nazional popolare, così titola Aldo Grasso questa mattina sul Corriere della Sera, spettatori e share al 42%, torna il grande show. Ma dicevamo, sui quotidiani non è ancora ben chiara la situazione di quello che invece sta accadendo in queste ore in Sicilia, per cui una carrellata dei titoli però non hanno ancora, dicevamo, ben chiara la situazione. Paura Messina, dispersi padre e figlio, così titola il Corriere della Sera, bimbo muore nel fango in Sicilia, questa mattina sappiamo che ahimè le vittime sono 4, l'alluvione si abbatte sul sud, ci sono dispersi anche qui, la Repubblica, sud travolto dal fango, a Saponara morti padre e figlio, un bimbo di 10 anni, frane sulle case, la Stampa, insomma immagini già le trovate di quello che sta succedendo, ma la situazione si va davvero chiarendo solo in questi minuti e allora noi vogliamo come sempre raccontarvi quello che sta accadendo già dalle primissime ore del mattino. E allora, la situazione, le 4 vittime almeno pare fino ad ora accertate, sono per lo più a Scarcelli, nel comune messinese di Saponara. Le vittime, un bimbo di 10 anni, una donna di 24, padre e figlio di 55 e 25 anni, ci sono ancora dispersi, ma la situazione è difficile un po' tutto nel messinese. Lo è anche a Barcellona, Pozzo di Gozzo, dove 50 famiglie sono rimaste isolate, dove è esondato un torrente, dove il sindaco ha invitato la cittadinanza oggi a non uscire di casa. Il sindaco di Barcellona Pozzo di Gozzo, Caldeloro Nania, in diretta già con noi. Buongiorno. Buongiorno signora. Com'è la situazione in questo momento? Che sta succedendo? In questo momento dal punto di vista meteo la situazione va meglio. Non c'è pioggia, non c'è stata pioggia. In ogni caso adesso si comincia a vedere le ferite che ci sono sul territorio. Viabilità, sentivamo poco fa, davvero difficile, non solo, ci sono diverse famiglie ancora isolate? Sì, ma soprattutto la viabilità è in gravissime difficoltà perché c'è fango dappertutto, ci sono tronchi di albero che sono venuti giù dalla montagna e quindi è una situazione quasi impossibile, perlomeno nel centro della città e in alcune altre zone. È successo tutto in pochi minuti? Com'è accaduto? No, diciamo che è avvenuto in qualche ora, che l'esondazione non ha riguardato soltanto un torrente, ma due torrenti, e che oltre all'esondazione c'è stato anche il crollo di un ponte, di tratti di argine, e quindi diverse parti della città sono stati danneggiati da questo nubifragio. La gente ha fatto in tempo, almeno da voi, a ripararsi ai piani superiori? Per fortuna sì, perché per il resto ci sono macchine ammassate l'una sull'altra, fango dappertutto, vi dicevo, di tronchi di albero, qualche frana. Per fortuna non ci sono stati morti qui da noi, però insomma ci sarà da lavorare, ci sarà da lavorare per tanto tempo. Sono le 6.24, lei è già in diretta con noi perché ovviamente avete lavorato anche in queste ore. Appena comincerà ad esserci un po' di luce, quali saranno i primi interventi? Ma intanto sarà obbligatorio spalare tutto il fango che si è riversato in città e cominciare a rimuovere questi ostacoli. E poi io ho chiesto ai miei concittadini di non muoversi perché in queste condizioni sarebbero solo di intralcio. So già di tanti giovani, di tante persone che vogliono venire a darsi da fare con delle pale per spalare questo fango. Io vorrei solo che l'attenzione non fosse per noi in queste ore, ma proseguisse nel tempo. Nel senso che ci vorrà parecchio tempo, ovviamente, per cercare di tornare alla normalità. Rassicuriamo sul fatto che da voi, appunto, non ci sono state vittime, ci sono però moltissimi danni. Ribadiamo ancora, Sindaco, meglio non circolare. Assolutamente, sì. Io ho dato per 2 giorni, ho fatto un'ordinanza per chiedere alla cittadinanza di non uscire, e sono chiusi gli esercizi pubblici e privati, tranne alcune botteghe alimentari che potranno servire a rifocillare la nostra gente. Per oggi avete notizie ancora di allerta, di emergenza? Sì, avevamo notizie di cattivo tempo, ma ripeto, allo stato attuale ancora non ci sono problemi. Grazie allora al sindaco di Barcellona, Pozzo di Gotto, per essere stato con noi. Candeloro Nania, buon lavoro in questa giornata davvero difficile. Grazie. Ricordiamo che la Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo oggi. Prevede temporali su Sardegna, Calabria, Basilica e Puglia, e potrebbero esserci anche per Marche e Abruzzo. Tra poco anche il nostro appuntamento meteo. Prima, come nostro consueto, voltiamo ancora una volta pagina. Voltiamo pagina per anticiparvi un'altra notizia della giornata di oggi, perché oggi a Bologna verrà presentato il terzo rapporto Nomisma sul mercato immobiliare 2011. C'è anche la crisi finanziaria che morde, e come si sta abbattendo allora sul mattone italiano? Un piccolo anticipo dei dati che saranno diffusi oggi, noi ve lo diamo con Deborah Rosciani, che ha intervistato il curatore del rapporto Luca Dondi. Partendo con una nuova flessione delle compravendite, abbiamo dovuto rivedere al ribasso una stima già pessimistica della prima parte dell'anno, e si sta abbattendo con una riduzione dei prezzi leggermente più marcata rispetto a quella che avevamo monitorato nel primo semestre, anche se i tassi di flessione sono comunque piuttosto contenuti. Traducendo in termini percentuali, di quanto è il calo? Il calo per quanto riguarda il residenziale è inferiore al 2% nominale su base semestrale, per gli altri settori è leggermente superiore, ma è un calo contenuto rispetto all'entità del calo atteso e soprattutto alle aspettative della domanda rispetto al calo dei prezzi. È un problema di sfiducia fra gli eventuali interessati a operazioni di compravendita, o è un problema anche di credito? È un problema di fiducia sulle prospettive del settore, sulle prospettive dell'economia nel complesso, è un problema di credito, c'è oggettivamente molta fame di credito da parte delle famiglie e poca disponibilità delle banche a concedere credito al settore in questo momento, e il settore è diventato dipendente da credito, quindi l'assenza di credito si trasferisce immediatamente alla riduzione delle compravendite. Dottor Dondi, l'andamento del mercato immobiliare italiano che immagine restituisce complessivamente del nostro paese? Ho immagine di difficoltà, di stagnazione e di prospettiva non rosea per quanto riguarda il mercato al dettaglio, e un'immagine di modesta credibilità per quanto riguarda invece il settore corporate, da cui sono usciti in larga parte gli investitori stranieri che hanno assunto un atteggiamento wait and see rispetto agli investimenti immobiliari in Italia. Previsioni per il primo semestre del prossimo anno, è possibile farne? La previsione che facciamo è che sicuramente saremo costretti anche questa volta a rivedere di prosecuzione dell'attuale congiuntura per almeno 12 mesi, quindi credo non ci siano novità positive da qui al prossimo anno. Prima edizione. Ed è il momento di Daniele Biacchessi. Italia in controluce. Buongiorno, buona mattina da Daniele Biacchessi. Ulderico Pesce, A come amianto. Questo è uno spettacolo di teatro civile che racconta storie di amianto. Da dove parte il tuo viaggio? Allora, il viaggio parte da Sesto San Giovanni e dagli operai dell'acciaieria Breda e Falck, dalle interviste che ho fatto a questi operai che hanno lavorato l'acciaio, e l'acciaio per temprarlo c'era bisogno di lenzuola di amianto per tenerlo caldo e farlo raffreddare piano piano, e in più questi operai avevano la tuta di amianto, le maschere d'amianto, i guanti di amianto per non bruciarsi, visto che l'acciaio era a 1200 gradi. E allora dall'intervista fatta a questi operai, dalle analisi e dalle riprese video che ho fatto delle aree dismesse di Sesto San Giovanni, della Breda, della Falck, le aree per le quali oggi è sotto inchiesta per Giunta Penati, aree, e poi torno Milano, compresa Milano, o in qualche modo intervistato altra gente, per esempio un momento fondamentale dello spettacolo è diventato, oltre agli operai, la bonifica del quartiere della zona Rogoredo di Milano, dove Giuseppe Grossi avrebbe dovuto bonificare quell'area e invece di bonificarla ci ha costruito il quartiere Santa Giulia, che pare, da indagini, visto che Giuseppe Grossi è stato arrestato, pare che sia stato realizzato questo quartiere su terreni non bonificati, pieni di amianto e altre porcherie. E allora da Sesto San Giovanni poi piano piano mi sono esteso a Roma, dove ho scoperto altre storie, a Romanengo, a Milano ho scoperto un'altra storia esemplare che è un po' fa da leitmotiv a tutto lo spettacolo, perché diciamo che il siparista della Scala di Milano, che si chiamava Enzo Mantovani, ha alzato e abbassato il pattone che era il sipario tagliafuoco della Scala di Milano, che era in amianto, l'ha abbassato dal 71 fino al 1996 con una passione incredibile, fino a che Enzo Mantovani si è ammalato di mesotelioma pleurico ed è morto di mesotelioma. E allora la Scala di Milano e la morte di Mantovani fa un po' da leitmotiv a tutta l'opera. Avete ascoltato un'intervista ad Ulderico Pesce e il suo nuovo spettacolo A come amianto. Torniamo oggi 13:30, Radio 24. Grazie a Daniele Biacchessi. In attesa, noi intanto invece andiamo a Bruxelles, dove saluto il collega del Sole 24 Ore, Gerardo Pelosi. Buongiorno. Buongiorno a voi. A Bruxelles, perché sta seguendo il tour europeo del Presidente del Consiglio Mario Monti. Ieri a Bruxelles ha incontrato i vertici dell'Unione Europea che hanno dato piena fiducia, almeno nelle parole, all'Italia, parlando però di una sfida immensa. C'era grande attesa per questo tour europeo, e allora Gerardo, io ti chiedo innanzitutto, è stato diverso il clima, l'atteggiamento, la situazione ieri a Bruxelles rispetto ai tuoi ultimi viaggi? Ci sono delle cose che la differenziano notevolmente e delle cose che invece sono rimaste quasi uguali. Il clima è diverso, cioè un seguito ridotto all'osso, anche il fatto che il nuovo premier, partendo da Ciampino, ha visto il grande Airbus, il KG-1, sul quale viaggiava sempre Berlusconi, con un seguito abbastanza consistente, e ha detto: beh, insomma, siamo pochi, siamo poco più di una decina, basta il Falcon, che è un aereo molto più piccolo, da 14 posti, e non da, da 50, da 60 posti e soprattutto molto meno costoso. E questo è già come il cambio dell'auto, cambio. Insomma, siamo passati alla tema, siamo passati ad un aereo un po' più piccolo. Esattamente, come l'auto italiana, come la tema passata dal Quirinale, quindi c'è anche questo, questa modifica. Però poi ci sono delle cose che in realtà sembrano uguali e quindi mentre così come Berlusconi poi aveva bisogno di numerose rettifiche in corso d'opera dopo i suoi cosiddetti mucchioni, e cioè queste improvvisate conferenze stampa all'uscita di Justus Lipsius, affidate poi a Bonaiuti. Beh, anche ieri alcuni dubbi che sono emersi sulla volontà del nuovo governo di rispettare il pareggio di bilancio dal 2013 hanno reso necessario da parte di Monti addirittura una telefonata diretta di Monti al giornalista, l'inviato dell'ANSA Federico Galimberti, che poi alla fine ha chiarito che anche il nuovo governo ritiene indispensabile e conferma il pareggio di bilancio nel 2013. In realtà che cosa era successo? Che nella conferenza stampa dopo l'incontro con Barroso e poi in quella dopo l'incontro con il Presidente del Consiglio Van Rompuy, il nuovo Premier non ha confermato in maniera esplicita questo dato, ma semplicemente perché nell'incontro con Barroso soprattutto lui ha cercato di sollevare la questione della cosiddetta, non è tanto Golden Rule, ma la sterilizzazione degli effetti della caduta del PIL sui deficit. E cosa vuol dire? Che adesso è in corso una new due diligence al Ministero dell'Economia, venerdì verrà il Commissario per gli Affari Economici e Monetari Olli Rehn, e si sta valutando di quanto potrà crescere il PIL nel 2012 per fare appunto la, come dire, il parametro rispetto al deficit. Secondo Tremonti questo parametro era del 2,3, secondo la Commissione dovrebbe essere 1,6, questa differenza di quasi un punto di PIL dovrebbe essere degli 11 e 15 miliardi di manovra aggiuntiva. Quindi, ebbene, insomma, tutto l'impegno di Monti è di cercare di in un certo senso azzerare o ridurre questa manovra aggiuntiva. E che cosa offriamo in cambio? Offriamo un rispetto molto molto rigoroso di quello che è cosiddetto la clausola del debito, quella chiesta dalla Merkel e che prevede che dal 2016 quei paesi come l'Italia che hanno un rapporto debito-PIL superiore al 60% riducano del 3% ogni anno il loro debito, e quindi quello diventa un impegno molto, molto importante. La condizione però, sulla quale i tedeschi aspettavano, però ecco, queste sono le diciamo un po' le questioni tecniche e che questo governo, sapevamo, è stato chiamato innanzitutto ad affrontare quelle, perché c'era bisogno anche di presentarsi con, esatto, con questi conti e con questo rigore in Europa. Si è sentita la differenza tra un presidente del Consiglio tra virgolette tecnico e uno invece più di approccio politico, anche se Monti Bruxelles la conosce benissimo perché c'è stato da commissario europeo, però la veste è diversa? Beh, diciamo che è sostanzialmente un altro mondo, è proprio una nuova fase della politica italiana, del rapporto con i media. Lui è lì, è visto quasi come un prestigiosissimo ex collega che può contribuire in maniera consistente a risolvere i problemi che ha l'Europa di fronte. Del resto adesso anche domani, quando si recherà a Strasburgo, tra l'altro un'altra novità, lui non è rientrato a Roma come si pensava in un primo momento, ma sta dormendo in queste ore nella sua casa di Bruxelles, non nella casa grande che aveva in avenuta dell'Ippodromo quando era commissario, ma un piede una casa ce l'ha, anche perché, come dicevamo, Bruxelles la conosce bene e comunque lo si attendeva proprio, esatto, per questo ruolo. Grazie allora Gerardo Pelosi, anche tu sei rimasto a Bruxelles, anche tu continuerai a seguire Monti e continuerai a seguirlo anche per i nostri GR24, oltre che naturalmente per il Sole 24 Ore. Grazie nel frattempo, Gerardo Pelosi. Prego, grazie a voi. Prima edizione. Le 6:46 minuti, ancora prima edizione per raccontarvi tutto quello che succede nelle prime ore del mattino, nella notte che, come avete sentito anche dalla viabilità, in Sicilia non è stata una notte facile. È stata l'ennesima tragedia del maltempo di questo autunno. Stando alle notizie arrivate fino ad ora, i morti accertati in seguito alla frana che ha travolto ieri sera un gruppo di case a Scarcelli, nel comune messinese di Saponara. Le vittime sono un bimbo di 10 anni, una donna di 24, padre e figlio di 55 e 25 anni, però ci sono ancora dispersi. E allora noi andiamo a Saponara con saluto questa mattina il sindaco di Saponara, Nicola Venuto, è con noi. Buongiorno. Buongiorno, anche se è difficile in queste ore davvero parlare di buongiorno. Com'è la situazione? Cosa sta succedendo in queste ore? La macchina dei soccorsi in questo momento è spiegata sul territorio. In realtà i dispersi sono due, quindi abbiamo il bimbo di 10 anni invece che è morto, e questi due dispersi sono padre e figlio, ancora non sono stati ritrovati. Della ragazza di 24 anni non ci sono notizie ufficiali. Quindi ufficialmente la vittima è ancora uno e tre sono i dispersi. Innanzitutto già questa per noi è una notizia, perché arrivavano notizie diverse. Dove, così, cosa è successo? Sono dispersi, erano in casa quando sono stati travolti? Sì, ma c'è stata una pioggia consistente per un paio d'ore. Non ho visto i dati pluviometrici perché ancora siamo isolati, siamo senza energia elettrica, quindi non ho visto i numeri, ma una quantità d'acqua, sembrava veramente una bomba d'acqua che è caduta sul paese. Quindi pochissimo tempo, tanta acqua. Sì. E un fiume di fango. Sì, di fatto si è liquefatta una collinetta. Che era alle spalle del paese, sì, immagino. Sì, che era alle base era alle spalle di questo gruppo di case. E quindi si è riversato su queste case, questo bimbo di 10 anni non ce l'ha fatta, padre e figlio e quest'altra donna di 24 anni erano in casa. Li state cercando, li avete cercati in queste ore? Sì, no, i soccorsi sono arrivati immediatamente. Dico, grande applauso alla Protezione Civile, all'esercito, ai carabinieri, a tutti i volontari. Sì, ci sono i soccorsi sul posto già dalle 22:30 e stanno facendo una ricerca incessante. La situazione della viabilità com'è? Ma la situazione della viabilità piano piano si sta riprendendo, è stata riaperta l'arteria principale che porta dalla statale al centro. Abbiamo ancora una frazione isolata che è San Pietro, ma a breve dovremmo avere buone notizie. Quindi insomma, diciamo, ovviamente ci sono questi dispersi, però la macchina dei soccorsi, ci diceva, si è messa in moto abbastanza velocemente. Per le prossime ore vi hanno diramato altre allerte? No, in questo momento non abbiamo allerte particolari. Quindi non piove più? Diciamo in maniera esagerata, sì, ci sono delle comunicazioni di pioggia, ma con delle fasi non cattive. Ecco, perché mi diceva prima è stata una bomba d'acqua, cosa è successo? Sì, è caduta una quantità incredibile d'acqua. Premetto che questa zona in cui proprio si è liquefatta questa collina non è censita nelle zone R4 a rischio, quindi non è una zona che negli ultimi 100 anni ha dato mai problemi. Quindi questa collinetta non era nota per problemi di frane? No, assolutamente. No, mai. Non è mai successo niente in questa zona, non è censita come R4, non ce l'ha mai stato nessuno all'arme. Quindi voi non avete sentore che di fronte a una forte pioggia potesse succedere una cosa di questo genere in questa frazione? No, non era tra i luoghi censiti ad alto rischio, no. Assolutamente no. Questa mattina vale anche per voi, immagino, l'invito a non uscire di casa e non ostacolare i soccorsi, come ci ha raccontato sì, anche il sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto poco fa, immagino. sì, anche noi abbiamo un'ordinanza per le scuole, insomma, di chiusura delle scuole, già emessa il giorno 21, che continua anche oggi, ma c'è una grande solidarietà all'interno del paese, stanno arrivando parecchi soccorsi anche dai paesi limitrofi, e ripeto, una macchina diciamo organizzativa per i soccorsi veramente degna d'ammirazione. Grazie, allora io la lascio tornare al lavoro, ovviamente, perché la macchina sta lavorando ma è complessa per i soccorsi. Sindaco di Saponara Nicola Venuto, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, a presto. Tra pochissimo c'è anche GR24, continueremo a raccontarvelo e a tenervi aggiornati. Questa è la situazione nel Messinese, molto altro di cui parlare tra poco in GR24. Grazie nel frattempo a Viola Bottoni, Peter Bescapè in regia. Da Anna Migliorati ancora una buona giornata, ci risentiamo tra poco ancora con le ultime notizie.